Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. L'Europa è casa nostra, non solo nostra di noi italiani, ma è casa nostra. Ed è la casa dei nostri figli e della casa dei nostri nipoti. Lo diciamo oggi più che mai, convinti come siamo che questa casa abbia bisogno di essere ristrutturata, forse rinfrescata, ma è la casa del nostro domani. Rinfrescata probabilmente sì, care ascoltatrici e ascoltatori, e anche decisamente ristrutturata l'Europa, questa casa che diciamo fa acqua da varie parti, ormai ne siamo consapevoli un po' tutti, però insomma qualcuno ha apprezzato, qualcuno no, questo clamoroso ribaltamento dei sondaggi che hanno dato ragione alla Brexit, 52%, 51,9%, 48,1%. Però possiamo dire una cosa, ecco, oltre a tutti i ragionamenti, le analisi complesse, le ripercussioni eccetera, possiamo anche dire che ancora una volta i sondaggi hanno fatto flop, anche in Gran Bretagna, perché fino all'ultimo ieri, se avete seguito i vari commenti, le varie trasmissioni eccetera, i sondaggi davano in vantaggio i sostenitori della permanenza in Europa, proprio fino all'ultimo momento, e questo perché i sondaggi dicevano appunto sempre sul filo, diciamo. Era sempre un 52% favorevole alla permanenza e un 48% invece all'uscita, però semplicemente i risultati erano ribaltati, la verità poi è stata un'altra. Insomma, shock per molti, soprattutto per le istituzioni europee, per coloro che credono in un'Europa unita, per coloro che sognavano gli Stati Uniti d'Europa, entusiasmo invece per gli euroscettici, sia della Gran Bretagna ma anche europei, da Marine Le Pen al... c'è il leader olandese anche che parla anche lui di una possibile Nexit, si parla di Frexit, e anche ci sono gli euroscettici italiani, tra cui Salvini per esempio, che ha detto subito che vorrebbe fare un referendum del genere anche in Italia, anche se c'è un articolo che lo vieta della Costituzione, insomma poi ne parleremo. Cameron naturalmente, primo ministro, si è dimesso, perché è stato proprio lui poi a avere l'idea di indire questo referendum. Ma pensate alla cosa particolare, e appena neanche diciamo siamo riusciti a elaborare questo e a digerire questo risultato, qualcuno contento e qualcuno no, e già in Gran Bretagna si preparano con una petizione che ha raccolto già 160.000 firme a un secondo referendum per rimanere in Europa, perché diciamo il paese è effettivamente spaccato. In particolare Scozia e Irlanda del Nord hanno votato per rimanere in Europa, quindi adesso vorrebbero un referendum a loro volta per diventare indipendenti dalla Gran Bretagna, per restare in Europa. Insomma, una situazione complicatissima. Quindi intanto vi chiedo, mentre sto per darvi il riassunto della giornata per quanto riguarda le vostre opinioni, vi chiedo in questo day after quali sono state le vostre riflessioni. Siete contenti, siete scontenti, siete impauriti, ritenete che possa essere una scossa, come dice qualcuno, per l'Unione Europea per cambiare? In che direzione? Scrivetelo sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte, oppure attraverso i messaggi WhatsApp a 349-238-6666, 349-238-6666. Titoli: Brexit, col 52% dei favorevoli alla Gran Bretagna divorza dall'Unione Europea, il primo ministro Cameron si è dimesso, borsa sterlina a picco. Il commento di Renzi: garantiamo la sicurezza dei risparmiatori, nelle difficoltà l'Europa dà il meglio di sé, la nostra casa. Il Papa in Armenia, Francesco evoca il genocidio del 1915, fu, dice, la prima grande tragedia del Novecento. L'esplosione della palazzina a Milano, fu manomesso il tubo del gas, si tratta di quello nell'appartamento del padre delle due bimbe ustionate, per lui avviso di garanzia. Olimpiadi 2016, l'Agenzia Mondiale Antidoping sospende il laboratorio di Rio perché non conforme, decisione shock a 6 settimane dall'apertura dei giochi. Partiamo quindi dal clamoroso ribaltamento dei sondaggi sulla Brexit, e quindi con la decisione della maggioranza dei britannici, 52%, di lasciare l'Unione Europea. Il primo ministro David Cameron ha annunciato le sue dimissioni alla regina Elisabetta II, le nuove elezioni ci dovrebbero essere in ottobre. L'esito del referendum apre comunque tanti nuovi interrogativi, specie, vi dicevo, in Irlanda del Nord e in Scozia, dove i cittadini hanno votato in maggioranza per restare nell'Unione Europea, e poi gli interrogativi sono naturalmente anche sulla portata delle possibili conseguenze sulla Gran Bretagna stessa, sugli altri paesi dell'Unione Europea e anche per il resto del mondo, perché continuano ad arrivare anche qui commenti dagli Stati Uniti che dicono stiamo cercando di trovare un equilibrio tra Gran Bretagna e Unione Europea. Ne parleremo poi tra poco. Il Regno Unito comunque certamente si è spaccato, abbiamo detto Irlanda del Nord e Scozia che hanno votato per restare in Europa e girano le spalle a Londra. Un voto che ha spaccato nettamente il Regno Unito sulla porta di uscita dall'Unione Europea. Il Leave ha segnato il suo obiettivo in un'estensione compresa tra le aree rurali del Galles, tradizionali roccaforti laburiste, già destinatarie di ingenti sussidi comunitari ad agricoltura e di infrastrutture, e attraverso maggiori città industriali dell'Inghilterra come Sheffield e Birmingham, fatte salve però Liverpool e Manchester. Il Remain si conferma dominante a Londra, con punte del 77%, e trionfa per un 56% in Irlanda del Nord. Martin McGuinness, leader dello Sinn Féin, ha annunciato che la Brexit rappresenta un imperativo democratico per ripensare all'Unione del Nord e l'Irlanda al resto dell'isola. La vittoria degli europeisti con il 62% in Scozia, dove Edimburgo segna il 74% di Remain, riapre divisioni profonde e l'ipotesi di un secondo referendum dopo quello fallito 2 anni fa è già sul tavolo. Nicola Sturgeon, primo ministro scozzese, ha dichiarato che comincerà le legislazioni in tal senso, perché il prospetto che la Scozia sia strappata dall'Unione Europea contro il suo volere è democraticamente inaccettabile. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra. Ma sentiamo le reazioni degli altri paesi. In Francia e Olanda, vi dicevo, per esempio, torna la voglia di staccarsi dall'Europa. Hanno brindato sull'esito del referendum e ora chiedono si faccia lo stesso nel loro paese. Non esitano di un passo i francesi del partito di estrema destra Front National, che invocano un referendum. Ora è il nostro turno. Frexit, scrive Marine Le Pen, leader dell'estrema destra francese che nelle ultime elezioni ha ottenuto un buon risultato. Reazioni simili, ma molto più frenate anche da parte degli olandesi, del partito del popolo danese, che chiede la rinegoziazione degli accordi con Bruxelles e definisce la decisione inglese coraggiosa, ma ribadisce di mantenere la calma e vedere ciò che succede. Nessuna esitazione invece per il Freedom Party austriaco. Fosse per loro, Juncker, numero uno della Commissione europea, avrebbe dovuto già dimettersi. La Brexit viene sventolata come l'allerta massimo e molti vogliono rinegoziare. È il caso di Madrid, che ha già detto che la decisione della Gran Bretagna di lasciare l'Unione europea cambierà anche il quadro dei negoziati con la Spagna su Gibilterra. Ad affermarlo il ministro degli esteri spagnolo José Manuel García Margallo, spiegando che i colloqui futuri saranno condotti a livello bilaterale tra Londra e Madrid. Anche in Svezia gli euroscettici democratici svedesi chiedono di dare la possibilità di scelta ai cittadini. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Anche il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, naturalmente è intervenuto sulla Brexit, l'abbiamo sentito anche all'inizio, è una giornata senza precedenti, ha detto, rassicurando però i risparmiatori. Matteo Renzi riferirà alle Camere lunedì prossimo sulla Brexit. L'intervento era già atteso per fare il punto sul Consiglio europeo del 28-29 giugno e prima di volare a Berlino rincontrerà al Quirinale il capo dello Stato Sergio Mattarella, segno della preoccupazione per il voto inglese. Il Premier interviene per rassicurare gli italiani. Far prevalere ciò che ci unisce e non ciò che ci divide. Questo è il tempo della lucidità e dell'equilibrio, il tempo della forza calma che in un momento non semplice può vedere l'Europa tornare protagonista. Esulta il fronte anti-Unione. Dai 5 Stelle alla Lega si auspica il referendum anche in Italia, soprattutto per decidere la permanenza non tanto in Europa quanto nell'euro. Ma la nostra Costituzione vieta la consultazione popolare per i trattati internazionali e le materie fiscali. Così Matteo Salvini. Noi riproveremo fuori dal Parlamento a raccogliere le firme con una proposta di legge di iniziativa popolare che permetta anche agli italiani di votare. Più pagato Silvio Berlusconi, che per Forza Italia chiede di rifondare l'Europa e un congresso del Partito Popolare Europeo. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E per l'economia italiana quali potrebbero essere le ricadute? Non ce ne dovrebbero essere, dice il ministro del Tesoro Padoan. Niente panico, avvisa la Confindustria. L'uscita di Londra dall'Unione Europea avrà effetti limitati sull'economia reale italiana. È un messaggio teso a tranquillizzare mondo produttivo e mercati, quello che arriva dal governo al termine del Comitato per la salvaguardia della stabilità finanziaria. Linea questa concordata a Palazzo Chigi subito dopo la notizia della Brexit in una riunione con il Premier Renzi, i ministri Padoan e Calenda e il governatore della Banca d'Italia Visco. La solidità dei fondamentali delle imprese tornerà presto a prevalere sulla volatilità dei mercati finanziari, dicono ancora dal Tesoro. Dobbiamo trasformare il trauma in una grande opportunità, commenta invece il presidente di Confindustria Boccia. Don't panic, dice Confindustria, tanto per capirci, è evidente che gli effetti ci saranno, I fondamentali sono a posto, però cerchiamo di utilizzare, diciamo, questo momento dando priorità a questo punto all'agenda europea prima ancora che all'agenda italiana. Noi avevamo immaginato, diciamo, un'agenda italiana, in realtà oggi si pone una priorità di un'agenda europea. Va ripensato il ruolo dell'Unione Europea, commentano da Confcommercio. Basta austerità, vanno cambiate le politiche sociali, dice Camusso, CGL. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Intanto però oggi, come dicevo, i mercati sono stati travolti, in particolare Madrid e Piazza Affari, per Milano una caduta storica. Giornata ad alta tensione sui mercati finanziari nel giorno dell'esito a sorpresa del referendum della Gran Bretagna. Le borse europee sono state travolte da una raffica di vendite, con Milano e Madrid che hanno guidato i ribassi e accusato le performance peggiori. Londra invece alla fine ha limitato i danni al 2,76%. La sterlina però è piombata ai minimi da oltre 30 anni sul dollaro, per poi limitare i danni e portarsi comunque sui livelli del 2009. Milano in chiusura ha registrato un crollo del 12,48%. Si tratta della performance peggiore da sempre. Per trovare qualcosa di paragonabile bisogna infatti tornare al 16 giugno del 1981, quando però gli indici erano diversi. All'epoca Milano perse l'11,76%. Anche nelle complicate sedute dell'11 settembre 2001 e nel giorno del fallimento di Lehman Brothers, la borsa milanese perse meno del 10%. A Piazza Affari sono tracollati tutti i principali titoli. Il rialzo dello spread, che ha chiuso a 160 punti, ha fatto precipitare le azioni delle banche, con i pesi massimi Intesa San Paolo e Unicredit in caduta libera di oltre il 20%. Da Radio Core, Eleonora Micheli per Radio 24. E poi c'è il Papa, invece, cambiando argomento, che torna a parlare del genocidio degli armeni del 1915 da parte del governo dei giovani turchi dell'impero ottomano. Lo fa nel corso dell'incontro con le autorità civili armene nel palazzo presidenziale di Yerevan, utilizzando un termine già pesantemente contestato da Ankara, dalla Turchia, che non accetta che si chiami genocidio. Bergoglio ha evocato la solenne celebrazione nella Basilica di San Pietro, con la quale il 12 aprile del 2015 ha detto si è fatta memoria del centenario del Metz-Jengen, il grande male, il genocidio, insomma, che colpì il vostro popolo e causò, dice il Papa, la morte di un'enorme moltitudine di persone. Quella tragedia inaugurò purtroppo il triste elenco delle immani catastrofe del Novecento. E poi all'estero questa notizia: lo Stonewall Inn, storico locale gay del Greenwich Village di Manhattan, teatro di tante battaglie per i diritti della comunità LGBT, è ufficialmente monumento nazionale americano. La designazione è stata fatta dal presidente Obama, che ha parlato di una decisione per onorare il movimento che ha portato l'emancipazione, appunto, della comunità lesbica, gay, bisessuale e transessuale. Siamo di nuovo in Italia con la cronaca: l'esplosione della palazzina a Milano. Potrebbe essere stato un tubo manomesso a causare la fuga di gas. Il tubo del gas fu tagliato o forse addirittura staccato. A quasi due settimane dall'esplosione che ha ucciso tre persone in via Brioschi a Milano, sembra prendere piede l'ipotesi del gesto volontario. Giuseppe Pellicanò, marito della donna morta a causa della deflagrazione, è stato indagato per strage dal pubblico ministero Elio Ramondini e dal procuratore aggiunto Nunzia Gatto. Dall'inchiesta è emerso che il pubblicitario, padre delle due bambine di 7 e 11 anni rimaste ferite nell'esplosione, era in cura presso uno psichiatra e uno psicologo per problemi di depressione e che stava frequentando un mediatore familiare per rendere meno traumatica la separazione con la moglie. Pellicanò non è ancora stato interrogato dagli inquirenti, perché ricoverato insieme alle figlie nel reparto ustionati del Niguarda. Attualmente sono in corso accertamenti per verificare la presenza di impronte digitali o biologiche sul tubo del gas dell'appartamento in cui viveva la famiglia di Pellicanò. L'esplosione, dunque, non sarebbe stata originata da una fuga di gas nell'appartamento a fianco, in cui vivevano i due studenti rimasti uccisi lo scorso 12 giugno. Giuseppe Luongo, Radio 24, e sulle 24 ore. E chiudiamo con lo sport. Sport e doping, in realtà, si allontanano sempre di più le Olimpiadi di Rio per Alex Schwarzer, e l'Istituto di Biochimica, che ha rianalizzato il sangue del marciatore altoatesino, smonta il complotto dicendo che i campioni sono anonimi. Noi della questione Schwarzer non sappiamo nulla, le provette sono contrassegnate solo da un codice e non sappiamo a chi appartengono. Il direttore dell'Istituto di Biochimica Sportiva di Colonia, Wilhelm Schanzer, si smarca da ogni sospetto. I test sui campioni di sangue sono in forma totalmente anonima. Solo ieri Sandro Donati, che di Alex Schwarzer è il preparatore atletico, aveva puntato il dito contro la WADA, l'Agenzia Mondiale Antidoping, sollevando dubbi sulla tempistica delle analisi. Il controllo che ha rilevato la positività di Schwarzer è stato effettuato su un campione prelevato a gennaio e già risultato negativo a un primo screening. L'ultima speranza risiede nelle controanalisi attese per il 5 luglio. La difesa dell'atleta sta cercando di anticiparle di una settimana, ma ogni giorno che passa Rio sembra sempre più lontana. Emiliano Mariotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di WADA, dell'Agenzia Mondiale Antidoping, è arrivata questa notizia: ha annunciato che il proprio laboratorio accreditato a Rio de Janeiro per il momento non potrà più condurre test sul doping, non conformità agli standard internazionali per i laboratori. Questa la motivazione, e il direttore della WADA, Olivier Nigli, ha reso noto che l'agenzia lavorerà a stretto contatto col laboratorio di Rio per risolvere il problema. Una notizia, insomma, a 6 settimane dai giochi non molto rassicurante. Dopodiché adesso questo è il riassunto della giornata. Cominciamo tra poco a approfondire i vari argomenti. Prima della viabilità però volevo dare un occhio ai vostri messaggi, alle vostre riflessioni da day after, appunto, dopo la Brexit, dopo questa decisione della Gran Bretagna, sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure al 349-238-6666 per i WhatsApp e gli SMS. E Taulant scrive: miglior scelta non potevano fare gli inglesi, ora tocca alla Francia, poi l'Italia, basta Europa che ci deve ordinare quello che ogni singolo Stato deve fare, ognuno a casa sua deve fare come vuole, scrive. Poi anche questo ascoltatore, ascoltatrice, dice: è una perfetta uscita dall'Europa, viva il Regno Unito. E poi un altro messaggio: l'Unione Europea inetta, costosa, assurda, basterebbe semplicemente pensare alla doppia sede a Strasburgo. E poi un altro messaggio: quella è la vera democrazia, non qua che... si fa finta. Viva la Gran Bretagna. Emanuele scrive: oggi anche se c'erano 30 gradi mi sono fatto un ultra British tè delle 5, ma ero indeciso se allungarlo con latte, con limone o con lacrime di europeista. Emanuele evidentemente è dispiaciuto. A me, io lo preferisco sinceramente con il limone, Emanuele, ma se sono spontanee queste lacrime, condiscilo pure. Ci sentiamo tra pochissimo, continuate, pagina Facebook di Effetto Noto oppure al 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che io, Roberto Giordano, vi ricordo tra pochissimo, dopo il riassunto della giornata e dopo anche avervi ricordato il riassunto già fatto poco fa. Adesso cominciamo a entrare nel cuore degli argomenti, ma continuo a leggere anche i vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte, che è Effetto Notte trattino Roberta Giordano, oppure al numero 349-238-6666, che è il numero per gli SMS e i WhatsApp. Quali sono le vostre riflessioni il giorno dopo questo clamoroso ribaltamento poi dei sondaggi, no? Vi dicevo, fino all'ultimo momento davano in vantaggio i sostenitori della permanenza della Gran Bretagna in Europa. Quali sono le vostre riflessioni da day after? Siete scontenti, siete tristi, come l'ascoltatore che diceva che era indeciso se condire il tè con il latte e il limone oppure le lacrime da europeista, oppure siete soddisfatti, o che pensate che possa succedere adesso? Quali sono, insomma, le vostre opinioni? Maria dice: da sempre la Gran Bretagna è stata più legata ai paesi del Commonwealth che all'Unione Europea, prima o poi doveva succedere, solo che la gestione di questa Europa ha accelerato le cose. Come sarà il giorno dopo non lo so, e credo che non lo sappiano nemmeno gli esperti, si possono solo fare ipotesi molto approssimative. Massimo da Roma invece scrive: ieri sembrava che con l'uscita dell'Inghilterra oggi sarebbe scoppiata la guerra, ennesima dimostrazione del grande bluff che è questa Europa, next stop Spagna, dice Massimo. Beh, la guerra, intanto hai visto i mercati finanziari, il crollo che c'è stato, ed è un segno anche, diciamo, di inquietudine generale. Poi le cose man mano, bene nel male, insomma, qualunque saranno, avvengono progressivamente, non è che oggi scoppiava la bomba atomica in ogni caso. Adesso, prima di approfondire appunto questo l'argomento centrale, vi ricordo le notizie principali. Gran Bretagna fuori dall'Unione Europea, il primo ministro Cameron si dimette, ha votato per il Leave, cioè per lasciare l'Europa, il 52%, ma il referendum spacca il regno in due. Panico sui mercati, l'Europa brucia 637 miliardi, piazza affari a meno 12,48%. L'Unione chiude a Londra, l'Unione Europea, che dice anche dispiace, ma via subito, chiedono i vari vertici leader europei. A questo punto acceleri la Gran Bretagna l'uscita. E poi lunedì ci sarà un vertice a Berlino tra Merkel, Hollande e Renzi. Esultano intanto gli euroscettici, occhi puntati su Frexit, cioè l'uscita eventuale della Francia e anche quella dell'Olanda, il Nexit. Farage e Johnson esultano per l'Independence Day, cioè i leader che hanno sostenuto in Gran Bretagna l'uscita. E poi anche Marine Le Pen in Francia dice: ora tocca a noi. Renzi dice l'Italia è solida, garantiremo la stabilità. Intanto c'è l'asse anti-Europa all'attacco con in testa la Lega che chiede un referendum anche per l'Italia. Dall'America Trump esulta in Scozia, Obama chiama Cameron e Merkel e poi Hillary Clinton dice serve una guida salda alla Casa Bianca in questi frangenti. Il Papa in Armenia dice un genocidio quello del 1915 che ha aperto in mani catastrofi. Europa 24 notte. And I've spoken to Her Majesty the Queen this morning to advise her of the steps that I'm taking. A negotiation with the European Union will need to begin under a new Prime Minister. And I think it's right that this new Prime Minister takes the decision about when to trigger Article 50 and start the formal and legal process of leaving the EU. Insomma, è stato molto chiaro e netto, direi che lo sia capito o no, il primo ministro Cameron, che è praticamente quasi ex ministro a questo punto, britannico David Cameron, che di fronte alla vittoria della Brexit ha annunciato, avete sentito, le sue dimissioni. Del resto non solo Cameron era per il no all'uscita dall'Europa, ma è stato proprio lui a indire questo referendum. Quindi c'è stata questa clamorosa smentita, vi dicevo, dei sondaggi che sino all'ultimo davano per il Remain, per la permanenza in vantaggio sul Leave. Nella notte però il sorpasso di Brexit per circa 1 milione di voti, quindi 51,9% contro il 48,1%. Quindi praticamente un paese, come abbiamo già detto, spaccato in due, in particolare con dicevamo l'Irlanda del Nord e la Scozia, che adesso vorrebbero addirittura un referendum per diventare indipendenti e restare nell'Unione Europea. È stato anche un voto generazionale, perché praticamente per il Remain hanno votato gli over 65, cioè per l'uscita, scusate, gli over 65, mentre i giovani per il Remain. Parlano di un giorno triste i leader europei, esultano invece gli euroscettici d'Europa. Intanto in Gran Bretagna è il giorno di Nigel Farage, leader del partito euroscettico UKIP, che ha commentato: è l'alba di un Regno Unito indipendente. Poi ci sono anche naturalmente gli euroscettici europei, come abbiamo citato Marine Le Pen, per quanto riguarda la Francia e il leader olandese, ed è su questa linea che si muovono poi anche in casa nostra i vari movimenti euroscettici di cui parleremo dopo. Trump dice: i britannici si sono ripresi il loro paese. Avete visto poi la reazione dei mercati finanziari, questo crollo che non c'era dall'attacco addirittura alle Torri Gemelle dell'11 settembre, per il timore di possibili conseguenze paventate anche in questi giorni. L'ambasciatore britannico a Roma, Christopher Prentice, ha detto: è stato un grandissimo esercizio di democrazia, forse il più grande della nostra storia, ed è il primo passo di un percorso che potrebbe richiedere anni e che nei mesi e negli anni a venire ci attendono grandi cambiamenti. In realtà lui parla di mesi e di anni, ma a questo punto, molto contrariati, i vertici dell'Unione Europea chiedono che la Gran Bretagna velocizzi questa uscita dall'Unione Europea. Saluto subito Sergio Nava da Londra. Ciao Sergio. Ciao Roberta. Allora, io prima di tutto vorrei chiederti: coloro che hanno votato a favore dell'uscita, che vantaggi avranno? Si è capito? No, non lo sanno neanche loro. Devo dire che ci sono due elementi che ci possono accompagnare, che vi lascio anche come riflessione per la serata. Il primo è un paragone interessante che ho letto qualche tempo fa, mette in relazione la campagna del Leave e i generali che nella prima guerra mondiale mandavano a combattere in queste trincee i soldati, la fanteria, dicendo andate sopra, non sappiamo cosa c'è ma voi sfondate, e poi venivano, sappiamo bene com'è finita, perché non c'era poi in realtà, era solo un attacco, un andare avanti ma senza poi sapere cosa ci fosse dall'altra parte. E la seconda cosa, secondo me ancora più interessante, che hai accennato tu prima, è il gap generazionale fortissimo, che la dice secondo me anche lunga su quello che sta diventando l'Europa, no? Un'Europa dove gli anziani stanno guardando sempre più indietro e non guardano più al futuro dei giovani. I giovani vivono in un'Europa aperta, vivono in un'Europa dove ci si muove, dove ci si mette in gioco, e gli anziani invece la vogliono cancellare. E questo, temo, indichi un egoismo generazionale su cui bisogna cominciare veramente a riflettere, perché è un forte egoismo generazionale. Rinchiudersi nel localismo porta a... non sappiamo dove porta, e lo vediamo già in Gran Bretagna, perché David Cameron, il grande scommettitore, ha perso la scommessa finale, ha scommesso su due elezioni, l'ha vinta, ha scommesso sul referendum scozzese e l'ha vinto di pochissimo, e poi a quest'ultima scommessa l'ha persa. E cosa si ritrova? Si ritrova con un Regno Unito fuori dalla Gran Bretagna e con potenzialmente con una Scozia domani fuori dal Regno Unito. Insomma, attenzione, aprire i vasi di Pandora, perché poi non sai mai dove vai a finire. Sergio, quindi una situazione un po' di incertezza, no, in Gran Bretagna. A questo punto, secondo te, la regina Elisabetta che sta pensando? Ma lei è stata tirata un po' per la giacchetta, soprattutto dalla campagna del Leave nelle ultime settimane. Il Sun cercò qualche settimana fa di dire che lei era per la Brexit. Ma penso che lei abbia interesse a mantenere, no, intanto unito il paese, visto che, diciamo che Irlanda del allora, Nord e Scozia. Non so cosa le passi per la testa in questo momento. Era una domanda, diciamo così, piuttosto ironica. Lo so benissimo, figurati, però la Casa Reale non prende mai posizione ufficiale né nelle elezioni né nel referendum, c'è una tradizione molto forte su questo. Però al di là poi della seconda indiscrezione che stavo accennando, cioè pare abbia detto una recente cena con dei commensali, datemi tre ragioni per rimanere in Europa, anche qui un atteggiamento che probabilmente svelerebbe un certo euroscetticismo, però da regnante la sua preoccupazione più forte a questo punto è che il paese non si disgreghi, certo. Perché abbiamo una Scozia che dice non ci potete obbligare a uscire dall'Europa perché noi abbiamo votato per restare in Europa, anche qui i paradossi della storia, quando la Gran Bretagna votò la prima volta nel 75 per entrare in Europa, la Scozia era la più euroscettica di tutti, dopo 40 anni è diventata la più convinta di tutti. Poi c'è l'Irlanda del Nord, dicevi, no Sergio? È l'Irlanda del Nord, sì, esattamente, lì c'è un problema di confine comunque e di retaggio storico con i troubles, gli scontri. Allora, si sta aprendo anche qui un vaso di Pandora, al di là del vaso di Pandora nei rapporti Gran Bretagna-Europa, che hai già analizzato molto bene, c'è un problema interno fortissimo e le prossime settimane saranno tutt'altro che semplici. Infatti, a proposito delle prossime settimane, intanto il paradosso, a proposito dei paradossi, c'è che, ho letto poco fa, che sta girando adesso una petizione in Gran Bretagna che ha raccolto almeno 160.000 firme, finora, ma continua a raccogliere, per fare un secondo referendum per restare in realtà nell'Unione Europea, quindi per dire... E poi comunque, Sergio, tu che sei anche esperto di istituzioni europee, spesso sei a Bruxelles, adesso ci saranno le varie procedure, le varie tappe per questo divorzio, no? Tra l'altro c'è anche l'obbligo del ritiro degli europarlamentari britannici dal Parlamento europeo. Ma anche lì ci stiamo infilando in un ginepraio non da poco. Gli europarlamentari che quando, diciamo, la Gran Bretagna lascerà l'Europa dovranno andarsene insieme al commissario europeo Jonathan Hill. Ma soprattutto c'è un altro paradosso che sta emergendo: l'articolo 50 lo deve innescare il paese che se ne va, e la Gran Bretagna non ha intenzione di farlo fino all'autunno, l'Europa vuole che lo faccia subito, e già qui si andrà presumibilmente, vediamo poi martedì mercoledì cosa succede al Consiglio Europeo, dove la Gran Bretagna già si presenta come ospite perché non parteciperà al secondo giorno dei lavori, non è stata invitata, è già praticamente con un piede fuori senza neppure aver invocato l'articolo 50, e paradosso dei paradossi, tecnicamente la Gran Bretagna spetterebbe la presidenza semestrale dell'Unione Europea nella seconda metà del 2017, nessuno ha ancora detto cosa succederà, perché tecnicamente dovrebbe ancora essere in Europa, ma immaginate un paese... Quante conseguenze, dicevo, Sergio. Grazie, sì. Intanto Sergio Nava da Londra, avremo modo poi man mano di vedere cosa succederà nei prossimi giorni. Ciao Sergio. Ciao. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Sicché il dado è tratto, ora prima di parlare di valori, di un'Europa unita, di un'Europa che deve umanizzarsi, deve essere meno tecno-burocratica, vedo anche tanti vostri messaggi che arrivano su questo, andiamo subito agli aspetti particolarmente pragmatici, diciamo. Le borse hanno reagito molto male, i risparmiatori si spaventano, la volatilità dei mercati può avere indicazioni negative, implicazioni per la stabilità economica, finanziaria, addirittura dagli Stati Uniti fa sapere il segretario del Tesoro americano, Jack Ballew, che le autorità economiche e finanziarie americane lavorano in queste ore insieme a Londra e Bruxelles per limitare gli effetti negativi della Brexit sul sistema finanziario ed economico mondiale, addirittura Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Quindi quali conseguenze potrebbero capitare a noi, oltre all'effetto domino, no, di cui magari parleremo dopo? Ciao, buonasera innanzitutto. Ciao Alberto. Purtroppo l'incertezza politica alimenta la speculazione sui mercati, la speculazione più feroce, che poi è quella che guadagna di più, e naturalmente con chi se la prende? Con l'anello più debole dell'Europa, che sono i paesi che hanno il più alto debito, e tra questi purtroppo ci siamo anche noi, quindi quando la speculazione parte colpisce dall'interno del listino della borsa italiana soprattutto le banche, perché poi c'è una vulgata che non si riesce a cambiare nel mondo dei mercati, secondo cui gli NPL, cioè i non performing loans tecnicamente, cioè le sofferenze delle banche italiane sono di cattiva qualità e possono mettere a repentaglio i bilanci, mentre è più che noto che ben oltre il 60% hanno garanzie reali corrispondenti e quindi non sono affatto pericolose, sono molto meno pericolose dei derivati, i famigerati derivati che ancora sono in pancia alle banche tedesche e francesi, che sono ben più pericolosi per la stabilità finanziaria di un sistema creditizio di un paese. Purtroppo però questa argomentazione la speculazione non la vuole sentire, forse per un fatto anche di debolezza, come dire, politica dell'Italia rispetto ad altri paesi che sono assai più robusti all'interno dell'Europa e nel mondo della finanza internazionale come la Germania e la Francia, e quindi parte la speculazione e mette nei guai appunto i titoli italiani, come è accaduto oggi peraltro, che abbiamo avuto una performance molto negativa. Come però a questo proposito sentiamo un passaggio di Renzi. Il governo, le istituzioni europee sono nella condizione di garantire con qualsiasi mezzo la stabilità del sistema finanziario e la sicurezza dei risparmiatori. Quindi ha detto questo Renzi, noi possiamo stare tranquilli, Alberto? Beh, insomma, c'è una volontà politica molto ben esplicitata e ha fatto bene a dirlo, perché appunto questo è importante, che la speculazione sappia che oltre un certo limite non può andare, perché comunque ci sono come dire, i paracadute che mettono in campo le istituzioni, che poi vuol dire il Fondo Atlante, che poi vuol dire il concerto che fanno le banche centrali, lo scudo della BCE che acquista titoli pubblici italiani e quindi abbatte lo spread, tutte queste cose. E quindi l'uscita per rassicurare i mercati, certo, in una giornata del genere era più che doverosa e poi effettivamente non ha sortito effetti, come dire, immediatamente visibili, come si è capito. Alberto, tra l'altro adesso pare che Londra in realtà stia temporeggiando per strappare altre concessioni all'Unione Europea, no? Dice inizierò i negoziati, le tappe per uscire, però prima evidentemente dietro le quinte, non tanto dietro, vuole effettivamente, evidentemente, avere delle altre concessioni che già aveva, no? In un rapporto bilaterale. Ma guarda, lasciami essere piuttosto esplicito. Io trovo che questa avventura che ha messo in cantiere Cameron sia una cosa sciagurata e abbia fatto di lui un leader debole, miope, improvvido, il quale purtroppo però ha fatto la storia dell'Unione Europea, perché da oggi l'Unione Europea è un'altra cosa. Sì, è stata una svolta storica. Ha costretto il paese a andare a un referendum spaccandolo clamorosamente con una campagna elettorale di una ferocia senza uguali, si ritrova che probabilmente modifica con un assetto anche dei confini interni probabilmente modificabile, perché la Scozia vuole tornare in Europa, ha scassato l'Europa e non sta creando le condizioni per un divorzio rapido, perché questa uscita di oggi delle dimissioni a ottobre e del lanciare la palla al prossimo leader significa prolungare, significa ulteriormente metterci davanti a un semestre di totale incertezza, e non va bene. Considera tra l'altro che il Parlamento inglese, che dovrà appunto decidere il nuovo successore a Cameron, scegliere il nuovo successore di Cameron, è per il 70% solidamente europeista. Quindi c'è il rischio anche che la coalizione che esprimerà appunto il nuovo leader dell'esecutivo britannico sarà all'opposto della volontà popolare espressa nel referendum. Sarà complicato. Alberto, dimmi solo una cosa proprio in chiusura sinteticamente, c'è chi chiede appunto più umanizzazione dell'Europa, di cercare di trovare una soluzione alle disuguaglianze, si ha l'impressione che sia più, cioè che ci si rimetta di più, che sia più penalizzante che non vantaggioso far parte dell'Unione Europea. Qualcosa deve comunque cambiare sinteticamente. Assolutamente, venerdì ci sarà il vertice dei leader europei, dei principali paesi, è fondamentale che venga fuori una nuova agenda, è fondamentale che si vada avanti con l'Unione Bancaria, è fondamentale che si inventi un'indennità di disoccupazione europea, una forma di assicurazione comune, è fondamentale che si metta a fattor comune il debito pubblico con gli eurobond, è fondamentale dare un segnale sulla difesa unica e soprattutto sulla gestione unica veramente degli immigrati, che sono stati il tema epocale che ha innescato poi il referendum e che dà come dire, lo spazio ideologico per le forze centrifughe e populiste. Grazie Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Buon lavoro Alberto. Grazie. E prima di lasciarci ancora qualche messaggio, ora possiamo fare l'Europa unita con un vero governo e non solo per l'economia, dice questo ascoltatore. Ivano, questa Europa è stata fatta per le banche e le multinazionali e non pensano al popolo che gli paga lo stipendio. Un altro messaggio al 349-238-6666, poi gli altri sulla pagina Facebook di Effetto Notte. I messaggi letti in diretta danno un chiaro messaggio della pericolosità dei populismi dilaganti, che non solo mettono in crisi l'Unione Europea ma la stessa base democratica che ormai diamo per scontata in Occidente. Continuate, ci ritroviamo tra pochissimo con i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte o 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al momento giusto, nel posto giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi, e anche state scrivendo sui giusti canali che sono la pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per WhatsApp e SMS che è il 349-238-6666. Abbiamo parlato in modo molto approfondito, anche collegandoci con Londra, di questo day after, e voi continuate con i vostri messaggi, con le vostre riflessioni su questo giorno dopo questa sorpresa per molti, visto che i sondaggi fino all'ultimo davano come favorita la permanenza della Gran Bretagna nell'Unione Europea. Cristiano dice: a conti fatti è stato un voto viscerale, figlio di lunghe ma anche comprensibili intolleranze verso un'Europa che di stabile non offre, non promette nulla socialmente, finanziariamente, politicamente, eccetera eccetera. Poi invece questo ascoltatore, vediamo se riesco a aprire subito questo WhatsApp, dice: l'Europa è pace, opportunità, libertà, futuro per i giovani. Se dimentichiamo questo siamo perduti, si può migliorare, non rinunciare. Questo è Roberto 55 che scrive questo messaggio. Poi un altro: deluso, non lo sarei se sapessi che la scelta non sia stata dettata dal populismo, ma credo sia così. I populisti di altri stati potranno capire cosa succede dopo l'exit. Inghilterra pilota, dice, questo quindi è un esperimento pilota quello della Gran Bretagna per vedere poi quali sono le conseguenze. Vi ricordo allora, se non avete acceso puntualmente alle 21, quali sono le notizie principali, e poi proseguiamo con il punto sulla politica italiana. Brexit: col 52% dei favorevoli la Gran Bretagna divorza dall'Unione Europea, il primo ministro Cameron si è dimesso, borse e sterlina a picco. Il commento di Renzi: garantiamo la sicurezza dei risparmiatori, nella difficoltà l'Europa dà il meglio di sé, la nostra casa. Il Papa in Armenia: Francesco evoca il genocidio del 1915 degli armeni, fu, dice, la prima grande tragedia del Novecento. L'esplosione della palazzina a Milano, fu manomesso il tubo del gas, si tratta di quello dell'appartamento del padre delle due bimbe ustionate, per lui avviso di garanzia per strage. Olimpiadi 2016, l'Agenzia Mondiale Antidoping sospende il laboratorio di Rio poiché non conforme, una decisione sciocca 6 settimane dall'apertura dei giochi. Sapete che il venerdì sempre qui a Effetto Notte faccio il punto della politica italiana della settimana. In realtà bisogna dire che senz'altro il focus, diciamo, oggi di questa settimana, surclassando con tutto il rispetto l'insediamento dei nuovi sindaci, soprattutto Virginia Raggi a Roma e Chiara Appendino a Torino, diciamo, il tema principale naturalmente è la Brexit e le reazioni anche della politica italiana alla decisione della Gran Bretagna di divorziare, insomma, con l'Europa. Il Presidente del Consiglio Renzi ha preso l'esito del referendum, ha indetto subito una conferenza stampa a Palazzo Chigi, sentiamo un passaggio. Se devo dare un nome all'Europa, voglio chiamarla casa, perché la casa non è soltanto un luogo fisico, la casa è un insieme di sentimenti, è un insieme di emozioni, e la casa è un luogo di solidità e di sicurezza. L'Europa è casa nostra, non solo nostra, di noi italiani, ma è casa nostra, ed è la casa dei nostri figli e della casa dei nostri nipoti. Lo diciamo oggi più che mai, convinti come siamo che questa casa abbia bisogno di essere ristrutturata, forse rinfrescata, ma è la casa del nostro domani. E dice, insomma, con questo voto, un voto storico, tutti lo riconoscono in un senso o nell'altro, comunque si volta pagina, ma l'Italia farà la sua parte. Il voto sulla Brexit, dicevamo, ha fatto esultare però gli euroscettici anche di casa nostra, in primis Lega Nord e Fratelli d'Italia. Allora sentiamo a questo proposito il leader della Lega, Salvini. Da Londra è arrivato uno schiaffone ai Napolitano, ai Prodi, ai Monti, ai Renzi, a quelli per cui l'Europa è cosa nostra. Gli italiani non si impiccino. Quindi A, noi riproveremo fuori dal Parlamento a raccogliere le firme con una proposta di legge di iniziativa popolare che permetta anche agli italiani di votare. Quindi cerca Salvini adesso di trovare il modo per fare un referendum anche in Italia, che però appunto è vietato da una legge costituzionale, bisognerà vedere come fare. Più cauti nel Movimento 5 Stelle, movimento che proprio alla vigilia del referendum aveva un po' scaricato Nigel Farage, con cui era alleato in Europa. Sentiamo Sibilia del direttore del Movimento 5 Stelle. Dice ancora una volta il popolo, la democrazia diretta. Alla fine, quando si interpellano i cittadini, la scelta è la cosa più bella che possa capitare, perché è sempre quella giusta, nel senso che le persone si esprimono esattamente come è stato per il referendum in Grecia. Noi esultiamo per quanto riguarda lo strumento che viene utilizzato. Quindi chiaramente noi non siamo per l'uscita dall'Europa, ma siamo sicuramente per ridiscutere quelli che sono alcuni rapporti, quindi referendum popolare che ci possa dare delle indicazioni per capire se effettivamente i cittadini a che parte stanno. Ripeto, l'hanno fatto in Grecia, l'hanno fatto in Inghilterra, io penso che sia arrivato il momento di farlo anche in Italia. Saluto Barbara Fiammeri, commentatrice politica del Sole 24 Ore. Barbara. Sì, buonasera a tutti. Ciao Barbara. Beh, Fratelli d'Italia, Lega Nord, Movimento 5 Stelle, anche se con diverse, diciamo, declinazioni, sono partiti da sempre critici, no? Nei confronti di Bruxelles, della sua gestione delle cose comunitarie, a partire dal sistema finanziario, dal sistema bancario. Oggi Giorgia Meloni diceva il vero problema, che chiede le dimissioni del Presidente della Commissione Europea Juncker, dice il vero problema è che le istituzioni europee sono distanti anni luce dai problemi della gente, e questo probabilmente è un fatto ormai abbastanza acclarato. Sì, allora è acclarato, però io ci tengo subito a sottolineare una cosa, sì, proprio dal voto di oggi, ovvero che i populismi che noi mettiamo insieme sono molto diversi, cioè il populismo che rappresenta la Meloni piuttosto che Salvini e anche la stessa Le Pen è molto diverso dal populismo degli olandesi oppure dalla destra xenofoba tedesca e dallo stesso movimento populista di Farage in Gran Bretagna. Perché? Perché sono diversi i paesi di origine, faccio un esempio chiaro, cioè i tedeschi ad esempio e la parte populista in Germania che sta crescendo anche lì e con la quale si deve confrontare la Merkel, che non dimentichiamo nella primavera del 17 ci saranno le elezioni in Germania, vuole scaricare i paesi del sud Europa ritenendoli una zavorra, ritenendoli pericolosi, non vogliono condividere il debito, non vogliono assolutamente un sistema bancario unico, cioè quindi sono contro questo. Noi dall'altra parte, cioè i populisti di casa nostra invece, chiedono invece una maggiore solidarietà, diciamo, a livello europeo, della condivisione anche dei rischi. Quindi sono delle pulsioni diverse. Sì, sì. Farage in Inghilterra non ce l'aveva tanto con gli immigrati senegalesi o siriani che arrivano dalle coste che abbiamo di fronte noi, di fronte alla Sicilia. Ce l'aveva soprattutto e ce l'ha soprattutto con gli immigrati italiani, rumeni, polacchi che vanno lì, infatti la sua campagna era vengono qui i camerieri italiani, gli idraulici polacchi a toglierci il lavoro a noi, quindi come vediamo le pulsioni sono molto diverse. Che cosa ci dovrebbe spingere tutto questo ragionamento? Al fatto che se ognuno punta a come dire, soddisfare il proprio interesse di pancia e a pensare che chi sta dall'altra parte è il nemico, si va poco lontani, cioè si ritorna a 70 anni fa, quando l'Europa era in piena guerra mondiale, perché non ce lo dimentichiamo questo, che Hitler, io lo vorrei ricordare perché qui la democrazia, come diceva Churchill, la democrazia forse è il migliore dei governi che abbiamo conosciuto, ma certamente non è perfetto. Anche Hitler è salito con un voto democratico, ma questo è come dire, la storia non è che questo ce lo consegna come una testimonianza di spirito democratico, quindi anche su questo io eviterei di fare della retorica sulla democrazia. È vero che questo voto è stato, e non a caso la nostra Costituzione per fortuna impedisce il voto sui trattati internazionali, così come lo impedisce sulle leggi fiscali, perché sarebbe facilissimo dire volete voi l'abolizione dell'IRPEF, immagino che tutti voterebbero per l'abolizione dell'IRPEF, quali sarebbero poi gli effetti, e così sui trattati internazionali, cioè sulla realtà oggi i cittadini ancora capiscono poco, vedono i mercati e i mercati che sono andati, cioè che sono schizzati, cosa significa? Non vedono le conseguenze, però ricordo a tutti che nel 2008, quando c'è stata la crisi finanziaria, le conseguenze nelle tasche di tutti i cittadini europei, compresi noi italiani, non le vedevamo. Noi ci dicevano che i ristoranti erano pieni e che andava tutto bene. Ce ne siamo accorti 2 anni dopo, perché prima che si trasferisca dall'economia finanziaria all'economia reale ci vuole un po' di tempo, ed è quel tempo che bisognerebbe utilizzare per evitare il tracollo. e speriamo che questa volta qualcuno ci pensi. Chiarissimo. Certamente... Barbara, leggo questo messaggio di Alberto e poi ci salutiamo. Dice: questo è il risultato di voler far prendere certe decisioni di massima importanza anche ad analfabeti ed ignoranti in materia. Lo sapevamo ad esempio che gli agricoltori del nord-est dell'Inghilterra, che a causa del loro voto oggi lo sapevano che Milano perdeva il 12%. Alberto, vabbè, probabilmente a loro non importava di Milano, ma bisogna vedere se hanno vantaggi per se stessi. Grazie Barbara Fiammeri, a presto. Grazie. Buon a fine voi, settimana. Buonasera. Ciao Barbara, abbiamo subito la via. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccomi con voi sempre, Roberta Giordano. Ricordo velocemente le notizie mentre continuano a scorrere i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. La Gran Bretagna, che ha deciso fuori dall'Unione Europea, il 52% ha votato per la Brexit. Cameron, il primo ministro, si dimette. Il referendum però spacca in due il regno. Panico sui mercati, l'Europa brucia 637 miliardi, Piazza Affari chiude a meno 12,48%. L'Unione chiude a Londra, dispiace. Cioè l'Unione Europea chiude a Londra, ci dispiace, ma via subito, quindi non temporeggiate. Esultano gli euroscettici, occhi puntati su Frexit, quindi sull'eventuale uscita anche della Francia e Nexit dell'Olanda. E poi Renzi dice: l'Italia è solida, garantiremo la stabilità. E c'è l'asse antieuropeo di cui abbiamo appena parlato. All'attacco anche in Italia, la Lega chiede un referendum. E anche nel calcio c'è qualcuno che commenta, proprio calciatori che commentano il day after. Sentiamo Chiellini. Io credo che la preoccupazione maggiore sia più che altro per l'effetto domino che potrebbe causare questa decisione. Purtroppo qualche pensiero lo crea. Il dispiacere è che si è fatta tanta fatica per creare un'aggregazione e... questo voto credo sia poi il sintomo di un malcontento generale che si percepisce nel nostro Stato, ma che è così in tutta Europa. E purtroppo però credo che nel malcontento non bisogna votare la disgregazione, ma ancora di più sarebbe un motivo per aggregarsi e cercare una politica di unione per migliorare e uscire da questi problemi. Monsieur Dario Ricci da Parigi, scusa, no, dalla Francia, sei sempre a Montpellier dove c'è il ritiro azzurro, dove sono gli azzurri. Beh, è un'anteprima mondiale questa di un calciatore che fa anche dell'analisi di geopolitica. Avevamo sentito sulla politica, su Virginia Raggi, De Rossi, anche Totti nelle scorse settimane. Qua alziamo il livello. Bello, insomma, non buttiamoli troppo giù questi ragazzi. Molti, diciamo, hanno... Mi fa piacere che abbiano interessi anche fuori dal calcio, no? Infatti, no, assolutamente. Poi Giannini è proprio uno di questi, sempre molto generoso anche nelle sue conferenze stampa, illustra bene i propri concetti, rilancia la conversazione, quindi tra l'altro è dottore in economia, quindi parla a ragion veduta. Oggi, scherzando anche con i colleghi, dico: sai, un'analisi di questo tipo l'avesse fatta un professorone con cravatta e doppio petto, saremmo magari a tradurla in diverse lingue. Chiellini, in modo ragionevole, ha manifestato il proprio europeismo convinto e il proprio rammarico per questa notizia che, insomma, ancora direi che non abbiamo ancora... Nessuno di noi ha ancora digerito, no, Roberto? Non abbiamo elaborato, infatti ne stiamo continuando a parlare. Dario, ci vorrà ancora tempo. Tra l'altro la vittoria del Brexit potrebbe mettere in crisi il massimo campionato inglese. Ci sono anche queste riflessioni, non solo... Sicuramente, come abbiamo accennato anche oggi in tutti i convocati, ci saranno delle conseguenze, magari sul lungo periodo, perché soprattutto per quanto riguarda la normativa relativa agli under 18, i giovani calciatori, sarà un pochino più... complicato vederli nei vivai delle grandi squadre inglesi e anche quelli che ora diventeranno extracomunitari, cioè giocatori europei, dovranno in qualche modo richiedere un permesso di lavoro partendo dal fatto che il loro ingaggio debba essere giustificato dalla qualità del giocatore stesso. Ad esempio devono garantire un certo minimo numero di presenze nazionali, insomma un iter un pochino più complesso. Staremo a vedere se poi il calcio riuscirà a rimanere ponte oppure se questa Brexit porterà un irrigidimento anche di questi canali di dialogo calcistici. Grazie Dario Ricci, e poi ci risentiamo naturalmente lunedì con la partita Italia-Spagna per l'Euro 2016. Caricati, mi raccomando, Dario. Au revoir, adio. Un bello carico. Au revoir, au revoir. Ciao, a bientôt. Oh, bisogna dire che in Gran Bretagna, soprattutto la zona di Londra, pioveva a catinelle ieri, eppure tutti con grande partecipazione sono andati a votare. Parlavano di code, di gente che guardava i corsi dei fiumi, degli stagni pur di andare a votare. Ma noi interessa l'Italia con Paolo Corazzon di Trebi Meteo, il nostro meteorologo, sapere che fine settimana avremo nel nostro piccolo... Buonasera Roberta, adesso davvero sarai contenta, è arrivata l'estate a tutti gli effetti, avremo un fine settimana con temperature veramente elevate, anzi fin troppo volendo, perché domani ci sarà da sudare soprattutto al centro nord, però ti segnalo domani sera dei temporali nelle regioni settentrionali, ma stai tranquilla, solo di passaggio, nulla di che, almeno domenica si respira un po' di fiume, mettiamola così, dai. Va bene, Paolo Corazzon ha mantenuto la sua nomea di portatore sano di sole, come lo chiamo io questa volta, finalmente l'hai portato. Sempre, te lo prometto. Grazie Paolo Corazzon, buon tempo a te, comunque buon sia. Buon tempo a tutti, ciao ciao. Ciao Paolo. Ancora poco tempo per i messaggi. Francesco da Roma dice la Gran Bretagna ha dato un grande contributo di sangue nella Seconda Guerra Mondiale perché l'Europa fosse libera e democratica. Perché lasciare ora l'Europa agli altri? Perché questo argomento non viene considerato? E poi Angelo da Cuneo continua a sognare un'Europa sovranazionale. Le nazioni romantiche quanti morti hanno causato? Quindi un'Europa sovranazionale di regioni. Spero ci riesca o moriremo, addirittura dice Angelo. E noi però ci dobbiamo lasciare. A questo punto ci risentiamo giusto alle 22.